Nei giorni scorsi l'Assemblea Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha approvato una importantissima risoluzione in materia di lotta all'AIDS. Si tratta di un documento che impegna tutti i Paesi membri dell'OMS a concretizzare finalmente gli sforzi per la lotta all'AIDS. Molti proclami sono stati fatti fino a oggi e purtroppo gli sforzi effettivi per combattere questa epidemia, che solo l'anno scorso ha ucciso 3 milioni di persone prevalentemente in Africa, fin qui questi sforzi non hanno dato molti risultati concreti. La risoluzione approvata nei giorni scorsi dall'OMS sembra un significativo passo avanti, perché impegna finalmente l'OMS a fare dei grandi passi avanti verso la prequalificazione dei farmaci. Vale a dire che i farmaci di qualità per la lotta all'AIDS saranno certificati dall'OMS e questo faciliterà moltissimo la loro diffusione nei paesi in via di sviluppo. Questo vuol dire anche che i paesi in via di sviluppo potranno più facilmente accedere ai farmaci generici, che sono farmaci che costano molto meno di quelli prodotti dalle multinazionali, che sono molto efficaci. Medici Senza Frontiere li utilizza in tutti i progetti di lotta all'AIDS con ottimi risultati, i nostri pazienti stanno immediatamente meglio. Purtroppo fino ad oggi questi farmaci generici sono stati utilizzati molto poco nei paesi in via di sviluppo, perché le pressioni dei governi occidentali e delle multinazionali farmaceutiche, queste pressioni hanno fatto sì che i paesi in via di sviluppo in qualche modo venissero fortemente scoraggiati dal ricorrere a questi farmaci. Ora, la risoluzione approvata dall'OMS nei giorni scorsi dovrebbe essere un vero passo avanti per facilitare il ricorso a questi farmaci. La terapia contro l'AIDS, se si utilizzano i farmaci di marca prodotti dalle multinazionali, costa circa $560 l'anno per paziente, e parliamo già di prezzi molto scontati che le multinazionali praticano nei confronti dei paesi in via di sviluppo. Se si utilizzano i farmaci generici il prezzo scende moltissimo, arriviamo a circa $200 l'anno per paziente, quindi è evidente che un uso massiccio dei farmaci generici vorrebbe dire poter curare il doppio o il triplo delle persone rispetto a quelle che riescono ad avere i farmaci oggi. Purtroppo dobbiamo registrare che durante l'assemblea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità gli Stati Uniti, la delegazione degli Stati Uniti si è opposta all'approvazione di questa risoluzione che facilita l'accesso ai farmaci generici. Gli Stati Uniti, da quando i farmaci generici esistono, cioè circa dal 2001, si stanno opponendo in tutti i modi alla possibilità per i paesi più poveri di acquistare questi farmaci. Al contrario, gli Stati Uniti forzano i paesi più poveri ad acquistare esclusivamente i farmaci di marca prodotti da industrie americane. Secondo Medici Senza Frontiere si tratta ovviamente di un atteggiamento pericolosissimo e che sta costando milioni di vite ogni anno. L'Assemblea Generale dell'OMS degli scorsi giorni ha fatto registrare anche altri segnali positivi, per esempio il fatto che si sta creando una coalizione di paesi in via di sviluppo o paesi che potremmo definire intermedi, vale a dire il Brasile, l'India, la Cina, il Sudafrica, quindi paesi poveri dove l'AIDS è veramente un'epidemia, ma non poverissimi, non sono i least developed countries che sono i più poveri in assoluto. Ecco, questi paesi intermedi si stanno coalizzando per far sì che nelle prossime riunioni degli organismi internazionali, che sia l'OMS o l'Organizzazione Mondiale del Commercio, faranno valere i diritti dei paesi più poveri.